Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Non è divino. Che cosa? Tiffany. È una meraviglia, vero? Capisci cosa intendo quando dico che niente di brutto può accaderti qui? Ha proprio ragione Audrey Hepburn. Tiffany è un luogo incantato, simbolo ineguagliato di eleganza e glamour. Tutto il mondo invidia a New York questa stupenda gioielleria, le cui scintillanti vetrine si affacciano sulla Fifth Avenue a Manhattan, nel cuore pulsante della Grande Mela. Il film Colazione da Tiffany di Blake Edwards, tratto dall'omonimo romanzo di Truman Capote, ne esalta la preziosità e la trasforma in un simbolo di perfezione, che incarna la città stessa. Una città grande, non solo nelle dimensioni, ma anche nei sentimenti, come sottolinea il suo sindaco, Michael Bloomberg, in un discorso che tiene presso la Statua della Libertà. Stiamo guardando il simbolo ispiratore della libertà, che ha accolto milioni di immigranti, e voglio testimoniare più fortemente che mai che questa è la città più libera del mondo. Questo rende New York speciale, differente da ogni altra città e forte. Le nostre porte sono spalancate per chiunque, chiunque abbia un sogno, la volontà di lavorare sodo e operare secondo le regole. La città più libera del mondo che spalanca le porte a chiunque abbia un sogno. È questo che sta pensando una ragazza seduta alla sua scrivania. È proprio questo New York. E mentre scrive la parola fine sulla pagina numero 416 del suo primo romanzo, non può fare a meno di tornare per contrapposizione all'inizio, al momento in cui quella sua splendida avventura è cominciata. Curiosa lo è da sempre, fin da piccolissima. Alle elementari, che frequenta nella sua città natale, Scranton, mette in seria difficoltà la maestra chiedendole perché il loro stato, la Pennsylvania, si chiami così. L'insegnante tergiversa. Così lei se lo cerca da sola il motivo e scopre che viene dal nome del suo fondatore, l'esploratore britannico William Penn, che la chiama così per sottolineare la natura boscosa del territorio. Gli anni dopo, la maestra ritroverà il nome di quella bambina su tutti i giornali. Non se lo è mai dimenticato. Loren Weisberger. Loren Weisberger. Lolita? Lolita! A lovely, what was it now? A lovely lyrical, lilting name like, Lolita. Lolita. Lolita. What do you want? Loren non ha difficoltà negli studi e si laurea in letteratura inglese a pieni voti. Dopo una bella vacanza in giro per il mondo, regalo di laurea della madre, la ragazza sta pensando a cosa fare della sua vita. È il 1999, ha 22 anni e ha il mondo in tasca. Di sbocchi professionali ne ha parecchi, potrebbe insegnare, oppure lavorare in un negozio di libri, fare la giornalista per qualche rivista di letteratura, anche se il suo sogno segreto è fare la scrittrice. Quello di cui è sicura al 100% è che qualsiasi lavoro sia quello che intraprenderà, la sta aspettando nella Grande Mela. Molti anni dopo, in una intervista, Loren citerà New York come la sua fonte inesauribile di ispirazione. Io prendo molto dalla vita dei miei amici, dalle cose che leggo, dalle storie e dalle esperienze. Ma New York ha giocato un ruolo immenso nella mia ispirazione, un ruolo veramente prominente. E non solo in quanto luogo dove vivono i miei protagonisti, ma per il loro stile di vita complessivo, per tutto quello che fanno, per ogni posto dove vanno. Loren inizia a fare colloqui di lavoro ovunque. Praticamente ogni giorno ne ha uno, nelle scuole come insegnante di letteratura, nelle librerie come responsabile del settore romanzi, nelle riviste come impiegata nella redazione. Sono molte le cose che potrebbero interessarle, ma sopra ogni altra c'è lo scrivere. È per questo che nel frattempo si iscrive a un corso di scrittura serale, The Writer's Voice. Andare al corso serale non pesa a Lauren. Anzi, sono quelli i momenti migliori della giornata, quando può sbizzarrirsi e far volare la fantasia, mettere nero su bianco le sue emozioni. Soprattutto si diverte. Ha uno stile giovane, veloce, molto descrittivo, adatto a storie contemporanee. Così le dicono i suoi insegnanti. Però lei deve anche mantenersi. Non può continuare in eterno a pesare sulla sua famiglia. Fortunatamente, molto presto, il suo telefono squilla. È una proposta di lavoro. Per molte ragazze della sua età e con la sua preparazione scolastica, si potrebbe considerare la proposta di lavoro per eccellenza. Per Lauren forse un po' meno. Lei preferisce il campo della letteratura, che si tratti di una scuola, di una biblioteca o altro. La telefonata che riceve, invece, parte da un vero e proprio tempio del fashion, del glamour, della moda. Un tema che le ragazze della sua età, nella città dove vive, considerano l'argomento fondamentale di conversazione. Quale giovane donna di New York non adora fare shopping? Indipendentemente dal fatto che si tratti di patologia nei casi estremi o di normale interesse, è assodato che lo shopping attiri soprattutto le donne e che le riviste di moda loro dedicate rappresentino una vetrina indispensabile per scoprire cosa propongono gli stilisti per la stagione che arriva, quali siano i trend e come fare per non essere out. Fra queste, ve n'è una che più di tutte incarna il glamour, lo stile, il fashion. Ed è proprio dalla redazione di questa rivista che arriva la telefonata a Lauren. Le propongono un lavoro niente di meno che a Vogue. La giovanissima Lauren Weisberger, appena laureata in letteratura inglese, arriva dunque a New York per cercare lavoro. Di colloqui ne fa moltissimi e un giorno riceve una telefonata. È la redazione della mitica rivista Vogue che la contatta per un secondo incontro. Per lei non è proprio il massimo, non è quello che cerca. Lo sa certo che Vogue è la Bibbia della moda, la rivista per eccellenza del fashion, ma lei ha altri interessi. Le piace molto scrivere e non sa se in quella redazione possa servire o meno una figura come la sua. Quando arriva al 1166 The Avenue of Americas a Manhattan, nella sede della mitica rivista, Lauren si rende conto per la prima volta di quello che significhi in un certo ambiente la parola Vogue. È un'autorità nel campo della moda, la rivista del settore più venduta al mondo. Ciascun numero permette a chi ne sfogli le pagine di conoscere le ultime tendenze in fatto di bellezza, stile, salute, fitness e sulla vita delle celebrità più in del momento. Qualsiasi tendenza, prima di essere di moda, è sulle pagine di Vogue. E pensare che è una rivista antichissima, che affonda le sue radici addirittura nel 1800. È l'editore Arthur Baldwin Turner a fondarla nel 1892. La sua idea originaria è quella di una rivista per l'elite newyorkese. La sua prima direttrice è Josephine Redding, che pare più interessata ai diritti degli animali che non ai diktat della moda. Vogue è un settimanale e si occupa delle tradizioni dell'alta società. In questo senso la moda non è il suo focus, se ne parla solo per consigliare cosa indossare in determinate occasioni. Alla morte di Arthur Baldwin Turner nel 1909, la rivista viene acquistata da Condé Montausnest, che nella sua lunga carriera realizza enormi successi editoriali, da Vanity Fair a Glamour. Ma il suo fiore all'occhiello è senza dubbio Vogue, che egli trasforma in poco tempo in una pubblicazione sofisticata, di interesse generale. L'alta moda, specialmente quella francese, trova ampio spazio nelle sue pagine, ma quello che fa lievitare enormemente le vendite è una vera astuzia che si inventa Nest. Inserisce una sezione dedicata al fai da te, con modelli di carta che le donne possono ricopiare o farsi fare dalle sarte. È un successo enorme. Perfino la First Lady Eleanor Roosevelt ne fa uso. Compro sempre Vogue. Ci sono i cartamodelli degli abiti francesi più di moda e poi anche quelli per i bambini. È davvero comodo. Posso scegliere le stoffe che preferisco, i colori che mi piacciono di più. È come avere uno stilista francese al mio servizio. Negli anni successivi Vogue acquista sempre più un ruolo predominante nel panorama delle riviste di moda e varca l'oceano. Con The Nest la porta in Francia, Inghilterra, Germania e via via in tutti gli altri paesi in cui è attualmente presente con una edizione locale. 18 nazioni, nelle quali è un indiscusso simbolo di stile. Ma tutto parte dalla grande mela. Ed è qui, nella mitica sede newyorkese di Vogue, che una mattina del 1999 arriva Lauren Weisberger per il suo secondo colloquio. Al primo dà sinceramente poca importanza. È uno dei tanti che fa quasi quotidianamente. E a dire la verità, è più che certa che non ci sarà alcun seguito. Invece la richiamano. Ma chissà per quale ruolo. L'ingresso è spettacolare e la sala d'attesa pure. Si vede che siamo in un luogo dove l'immagine conta molto. Lauren viene accolta da una ragazza elegante e bella, una di quelle persone che a New York viene definita già al primo sguardo una fashion victim. La ragazza la conduce in un salottino e confida a bassa voce a Lauren che stanno entrando in una parte della sede di Vogue che non tutti vedono: gli uffici della direttrice. Nel pronunciare la parola direttrice, la ragazza ha un brivido. Lauren non sa nemmeno di cosa stia parlando, o meglio, presuppone che anche Vogue abbia un suo direttore, ma chi sarà mai per parlarne così, quasi con un timor reverenziale? Ce la descrive un altro famoso direttore di giornale, Silvana Giacobini. Anne, capelli biondi a caschetto, occhiali scuri che abbandona raramente a celare uno sguardo azzurro algido, niente borse ma solo un portafoglio in mano, sorriso smorzato e impenetrabile, gestisce un potere esagerato del XX secolo, fatto prevalentemente della sua bravura nelle pubbliche relazioni. La redazione dove viene introdotta Lauren è qualcosa di incredibile. Ha provato parecchie volte nei giorni passati a immaginarsela, ma non avrebbe mai potuto figurarsi una tale bolgia. Ci sono decine di persone che parlano, gente che addirittura corre, grandi pannelli appesi alle pareti carichi di foglietti, scritte, numeri, ma soprattutto foto dappertutto. Lauren osserva attentamente. Non vuole perdersi nemmeno una virgola di quanto succede in un luogo così strano come quello. L'impressione che ha è quella di un sistema solare dove decine di pianeti e di satelliti gravitano in un apparente caos intorno a un fulcro, una donna. Ha un caschetto castano chiaro e un paio di occhialoni neri che le coprono mezza faccia. L'abbigliamento è decisamente glamour. Anche l'aria intorno a lei pare essere griffata. È lei la direttrice, la donna che tutti paiono temere terribilmente in quel posto. Lauren la guarda con attenzione. È molto magra e nonostante debba avere almeno una cinquantina di anni, è molto giovanile e curata. In quel caos di gente che le gira intorno tutta affannata, lei pare trovarsi completamente a proprio agio. È sicura di sé, non ha un tentennamento. Lauren non ne ha mai sentito parlare, non sa nemmeno come si chiami e si domanda perché si trovi lì in quel momento. In fondo lei è una laureata in letteratura, cosa ci fa nella redazione di un giornale di moda? Dovrebbe essere piuttosto in un classico ufficio con scrivania in radica di qualche professore universitario. Beh, di certo qui è più dinamico e divertente. E la direttrice non risparmia proprio nessuno. Questa foto non è glamour, è per Vogue, ok? Eliminiamola. Questa non mi fa impazzire. Questo sì, è quello che dovremmo fare noi. Questi sono vecchi. Orribile. Sembra incinta? No. Dopo un'attesa che a Lauren sembra sinceramente interminabile, il caschetto castano scambia un cenno d'intesa con la ragazza che l'ha accolta. E Lauren si ritrova, in men che non si dica, in un ufficio bellissimo. L'arredamento denota un gusto raffinato, anche se un certo caos c'è anche qui, e le foto abbondano ovunque. Eccolo dunque il regno della direttrice. Gli occhialoni neri finiscono sulla scrivania con un gesto rapido quando la donna si siede nella sua poltrona e guarda dal basso verso l'alto Lauren. Non la invita a sedersi e la squadra da capo a piedi con i suoi occhi gelidi. Le due si stanno soppesando e tacciono entrambe, tanto che la ragazza che ha portato fin lì Lauren tenta di rompere il ghiaccio presentandole la direttrice. È Anna Wintour. Anna Wintour. Quando parla, la sua voce è più dolce di quanto ci si aspetti. Sta cercando un assistente personale e lei risponde pienamente alle caratteristiche cercate. Può cominciare da lunedì. Ogni altro dettaglio sul periodo di prova e il compenso le verrà fornito dall'ufficio personale. Lo sguardo si fa ancora più freddo e scostante quando la congeda e uscendo nella trafficata Avenue of Americas, Lauren Weisberger si domanda come mai abbia accettato proprio quel posto. Deve essere proprio matta. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Destini incrociati. Un colloquio di lavoro può cambiare la vita. Ecco quello che accade a Lauren Weisberger, giovane neolaureata in letteratura inglese, approdata a New York nel 1999. La ragazza viene assunta nella redazione del mitico giornale di moda Vogue in qualità di assistente della direttrice, la famosissima Anna Wintour. Lauren in realtà sa ben poco di lei. Quando la incontra, non conosce il suo nome, non l'ha mai vista, né ha mai sentito tutte le cose che si dicono su di lei. Ma chi è questa donna incredibile, incubo dei suoi collaboratori, corteggiata da tutti gli stilisti del mondo, inseguita dai paparazzi che si occupano di moda? È stato mio padre a decidere per me che avrei lavorato nel campo della moda. Mi disse: non vorresti essere la direttrice di Vogue? Ovvio che sì. E così è stato, era deciso. Lei stessa ricorda i suoi esordi a Londra, quando già a 16 anni lavora come giornalista. Il padre Charles è il direttore dell'Evening Standard e la introduce nell'ambiente. Anna è in gamba, intelligente, veloce. Mostra già quelle doti che solo alcuni anni dopo le fanno guadagnare l'appellativo di Nuclear Winter. Ha già uno stile molto preciso, con quei capelli tagliati a paggio. La sua carriera ha un'ascesa rapidissima. Passa da una rivista di moda all'altra, un periodo molto formativo per lei, in particolare al Harper Bazaar, che la chiama New York. È qui che ha il suo primo contatto con quella che diventerà la sua creatura, Vogue. Una sua ex collega le combina infatti un colloquio con la direttrice Grace Mirabella. E quando la donna le chiede quale posizione le piacerebbe ricoprire all'interno di Vogue, Anna non ha esitazioni. Quale posto voglia Vogue, direttrice? Il suo. Anna non ha peli sulla lingua e sa dove vuole arrivare. Nel 1985 le offrono la direzione di Vogue a Londra e lei accetta, perché sa che tanto di lì a poco tornerà a New York. E infatti è così. Dopo neanche 2 anni e dopo aver trasformato il Vogue britannico in una rivista di enorme successo, la dirigenza della Condé Nast la richiama nella Grande Mela. È il 1988. Anna ha solo 39 anni e siede sulla poltrona che è stata di Diana Vreeland e Grace Mirabella, due grandissime giornaliste, due direttrici assolutamente spettacolari. Ma lei, mentre prende possesso della scrivania, mentre decide tutte le modifiche che intende effettuare per personalizzare al massimo il suo ufficio e dimostrare a tutti i suoi collaboratori che ora lì c'è lei in quel momento, Anna fa a se stessa una promessa solenne. La rivista Vogue, con lei, conoscerà una fama mai avuta. La sua autorevolezza diventerà universale e tutto il mondo dovrà conoscere Anna Wintour e il suo stile. Uno stile che non cambia mai nel corso degli anni, a cominciare dalla pettinatura, il caschetto che la caratterizza da sempre. Sono sicura che sia molto noioso, dovrei cambiare. Ma ogni volta che ho tentato non ha funzionato. Anna deve fronteggiare subito un grosso problema. Sotto la direzione di Grace Mirabella, Vogue è diventata una rivista focalizzata soprattutto sugli stili di vita e sull'attualità, e molto meno sulla moda. A questo si aggiunge la nascita dell'edizione americana di Elle, la diffusissima rivista francese. Gli investitori e tutta la redazione di Condé Nast esigono un ritorno al fashion puro, un mercato che non conosce crisi. Per Anna è un invito a nozze. La moda è la sua vita e quello che deve trasmettere la rivista che lei dirige non può che essere l'essenza della pura bellezza. I love you, baby. I love you now. Look at us, we're beautiful. All the people push and pull, but let's just go out and ride. Talk about the things we try. Look at us, we're beautiful. All the people push and pull, but they'll never get inside. We got too much to hide. Negli anni 90, Vogue conosce una crescita esponenziale sia nelle vendite sia nell'autorevolezza che si conquista. La rivista rispecchia la sua direttrice. Anna, occhialoni e caschetto biondo, diventa un personaggio sempre più noto nell'ambiente. Le sfilate di moda se la contendono. Se lei sceglie per la copertina della sua rivista un certo stilista, è sicuro che costui raggiungerà il successo all'istante. E questo è un argomento che le interessa molto: i nuovi stilisti americani. Anna è convinta che nella sua posizione debba aiutare la moda made in USA. New York dà grande supporto ai giovani stilisti. Con l'attenzione che diamo loro, credo che si possa dire che abbiamo cambiato il panorama della moda americana. La gente viene a New York per vedere i giovani stilisti, così come per vedere i grandi della moda. Per contro, Anna diventa sempre più scontrosa. È molto duro lavorare per lei. Il suo ufficio è immenso e chi vi entra deve percorrere un lungo tratto prima di raggiungere la scrivania dove lei siede. Questo mette il visitatore in uno stato di inferiorità e lei nella condizione di studiarlo attentamente. È qui che per la prima volta Lauren Weisberger la incontra. Indubbiamente Lauren è avvantaggiata rispetto agli altri candidati a quel lavoro. Per una serie di motivi, lei non la conosce per niente, questa Wintour. Non sa che è il terrore dei suoi collaboratori. Non sa che è una donna molto potente. E tutto sommato non è nemmeno tanto interessata a lavorare per lei. Forse è proprio per questo che piace ad Anna. Mentre la sta squadrando da capo a piedi, si convince che forse questa ragazza ha un piglio e una determinazione che possono piacerle. Le ricordano se stessa da giovane. È così che Lauren inizia a lavorare nella redazione di Vogue. Lei, che non sa nulla di moda, diventa un'esperta di tacchi a stiletto, make-up acqua e sapone, magliette tempestate di pietre e appuntamenti irrinunciabili con le sfilate. Impara a conoscere come nasce una rivista di moda. Si stupisce dell'immenso lavoro che si nasconde tra quelle pagine apparentemente tanto leggere. E soprattutto subisce il fascino e i malumori di Anna Wintour. Quando la direttrice la chiama nel suo ufficio, Lauren non trema come tutti gli altri. Mentre percorre il lunghissimo spazio che divide l'ingresso dell'ufficio dalla scrivania dove siede Anna, Lauren pensa che non è destinata a rimanere lì per molto e quindi è tranquilla. E poi quella donna è una fonte incredibile di ispirazione. Se ne accorge anche il suo coach, al corso serale di scrittura, dove Lauren ha iniziato a scrivere un racconto sulla sua esperienza a Vogue. Cara, mi puoi dire il nome della direttrice di Runway? Non ci potevo credere, mi stava facendo un quiz. Era il mio primo colloquio alla rivista che cercavo un assistente. Io non avevo mai letto nemmeno una riga di quel giornale. Non conoscevo minimamente il nome di quella donna. Santo cielo, è solo una rivista di moda. Nessuno si interessa così tanto ad una rivista di moda, né tantomeno alla sua direttrice. Lauren scrive di sera quello che fa di giorno, si ispira alla sua vita, alle sue esperienze e soprattutto a quella donna incredibile, Anna Wintour, che ha la fortuna e il dispiacere di incontrare tutti i giorni. La studia, la analizza minuziosamente, prende appunti mentali su di lei mentre la donna le detta appunti reali sull'ultima tendenza delle borsette da sera. Le fissazioni, le manie, le ossessioni di Anna diventano il centro dell'interesse di Lauren, che non se ne perde una. È così che lentamente ma inesorabilmente qualcosa si fa strada dentro la sua testa. Perché non scrivere un libro su di lei? Perché non mettere a frutto la sua presenza nella redazione di Vogue e la sua vicinanza con una donna incredibile come Anna Wintour per realizzare il suo sogno, diventare una scrittrice? Finalmente Lauren apre gli occhi. Il suo futuro improvvisamente è lì, davanti a lei. Silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it. It makes you count. She holds you captivated in her palm. Destini incrociati. Dieci mesi possono essere un tempo molto breve o molto lungo, a seconda dei casi. Per un assistente di Anna Wintour, la terribile direttrice di Vogue USA, sono un tempo record. Eppure Lauren Weisberger, neolaureata in letteratura inglese, riesce a durare così tanto come assistente della tremenda Nuclear Winter. La giovane ha una segreta passione, adora scrivere. Ecco perché frequenta un corso serale per autori emergenti. Vivere a stretto contatto con una donna volitiva e caratteriale come Anna Wintour fa scattare in Lauren il desiderio di scrivere un libro su di lei. Dopo appunto 10 mesi, la ragazza si licenzia da Vogue per passare a un giornale più consono alle sue potenzialità, Departures, rivista edita dall'American Express Publishing, che si occupa dello stile di vita americano. Ma nonostante non frequenti più Anna Wintour tutti i giorni, quella donna, il suo modo di fare, le sue abitudini folli, il suo essere così esigente e dura con i collaboratori, sono oramai parte integrante del bagaglio di conoscenze che Lauren ha acquisito a Vogue. Il risultato della sua esperienza arriva nel 2003. Quei suoi appunti serali, quelle esercitazioni durante il corso di scrittura, si trasformano in un libro. Il titolo è già di per sé una grande prova di bravura, così inusuale e creativo. Il diavolo veste Prada. Lauren crea un suo alter ego, la spaesata Andrea Sachs. Vogue diventa Runaway e Anna Wintour prende il nome di Miranda Priestly. Ma il succo della storia è né più né meno l'esperienza travagliata e al tempo stesso bellissima di Lauren. Il suo successo è immediato quanto inaspettato. È la stessa autrice che lo ricorda. Non potrò mai dimenticare la prima telefonata che ricevetti dal mio editore dopo l'uscita di Il diavolo veste Prada. Mi disse che dopo la prima settimana il mio libro era in testa alle classifiche di vendita. Ero all'angolo tra l'86esima e la terza e stavo lì, in piedi, senza sapere se dovevo piangere o ridere. Il fatto è che fin quando non te lo dicono, non lo sai se il libro piacerà oppure no. E poi chi mai lo avrebbe detto che sarebbe diventato un successo così clamoroso? La vita di Lauren cambia in maniera vorticosa. Il suo libro diventa un bestseller, rimane addirittura per un anno nella lista dei libri più venduti del New York Times. Viene tradotto in numerose lingue e venduto in ben 34 paesi nel mondo. Per Lauren è la consacrazione come scrittrice. Mentre legge le recensioni che le arrivano da ogni parte del mondo, sorride pensando al suo ex capo, la terribile Anna Wintour. Averla incontrata ha davvero cambiato la sua vita. Ma qualcosa di ancora più incredibile sta per accadere. Qualcosa di inaspettato che porterà una notorietà internazionale anche alla terribile Nuclear Winter. Lauren riceve una telefonata dal suo editore. Lauren, ascoltami bene. Abbiamo ricevuto una proposta da Wendy Feinerman. Lo sai chi è? È la produttrice di Forrest Gump. Vuole fare un film dal tuo libro. Per Lauren è un colpo incredibile. Ora il film porterà alla ribalta di un pubblico ancora più vasto la sua storia. La scrittrice si domanda cosa avrà mai pensato Anna Wintour del suo libro e cosa mai penserà vedendosi rappresentata sul grande schermo. Il diavolo veste Prada diventa un film che esce negli Stati Uniti il 30 giugno del 2006. Il regista David Frankel, abituato a trattare i temi della moda, avendo realizzato parecchi episodi di Sex and the City, confeziona un magnifico spaccato della redazione di Runaway. La parte di Andrea, la giovane assistente, alter ego di Lauren, viene interpretata dalla frizzante Anne Hathaway, mentre Miranda Priestly rappresenta una delle interpretazioni più riuscite, caratterizzate e apprezzate della grandissima Meryl Streep. Chi sei? Mi chiamo Andy Sachs. Mi sono laureata da poco alla Northwestern University. E che cosa ci fai qui? Penso di avere le capacità per lavorare come sua assistente. E sì, sono venuta a New York per fare la giornalista. Gli ho mandato lettere da tutte le parti. Finalmente sono stata chiamata dalla Elias Clark. Ho incontrato Sherry alle risorse umane e praticamente ho qui ho Auto Universe. Quindi tu non leggi Runway? No. E prima di oggi non avevi mai sentito parlare di me? No. E non hai la minima idea dello stile, del senso della moda? Penso che dipenda da quello che uno... No. Non era una domanda. Le vicende di Andrea Sachs, la giovane assistente di Miranda Priestly, nel film Il diavolo veste Prada, trovano estimatori in tutto il mondo. Il film è un grande successo, non solo in tutta l'America, ma anche in Europa, dove forse fino all'uscita del film la figura di Anna Wintour non è così nota. Ma l'interpretazione di Meryl Streep è così accattivante, così precisa, da spingere l'opinione pubblica a interessarsi un po' più a fondo di chi sia questa Anna Wintour che ha ispirato il suo personaggio. Sentiamo come ne parla la grande attrice in una intervista di David Letterman durante il suo famoso show. La donna sulla quale è basato il libro è il direttore di Vogue. E l'ho incontrata per la prima volta all'uscita del film, a una serata di beneficenza. E lei molto gentilmente è venuta ed è stata un ottimo supporto. Per creare il mio personaggio mi sono però basata anche su capi che ho avuto, ed erano uomini. Qui la cosa interessante era come la gente vede le donne che sono dei capi. Il Diavolo Veste Prada rende Anna Wintour ancora più nota e famosa. Lei stessa non perde occasione per riconoscere di essere colei che ispira il libro di Lauren Weisberger e il personaggio di Miranda. Sempre al Late Show di David Letterman, Anna sottolinea il suo modo di essere così vicino a quello del personaggio creato da Lauren. Io sono molto decisa. Cerco di dare delle indicazioni molto precise alle persone con le quali lavoro. Sfortunatamente alcune volte loro non sentono le risposte che vorrebbero sentire. Alcune volte, come si dice nel film, non mi comporto come una donna, ma io apprezzo il lavoro, la creatività, il talento, e quello che ho gradito nel film è che mostra molto bene il duro lavoro che sta dietro la realizzazione di un giornale come Vogue. La terribile direttrice, la Nuclear Winter, che tutti nel mondo della moda temono, è ora notissima anche a chi non si interessa direttamente di tendenze, fashion e glamour. Attraverso l'interpretazione di Meryl Streep e grazie al libro di Lauren Weisberger, sembra quasi che la grande giornalista, colei che riesce a trasformare Vogue in un tempio incontrastato della moda d'oltreoceano, ritrovi un po' di quella umanità che magari anche solo per difendersi deve nascondere agli altri e a se stessa. A conferma di questo, Anna fa una dichiarazione molto gentile riguardo all'interpretazione di Meryl Streep. Il film è molto divertente. Tutto quello che viene fatto con lo scopo di far conoscere ed amare il mondo della moda per me va bene. Ci sto al 100%. E se Meryl ha voluto disegnare un personaggio deciso e forte, io rispetto la sua scelta. A conferma della popolarità che il libro e il film Il Diavolo Veste Prada regalano ad Anna Wintour, arriva per la direttrice di ferro una vera e propria consacrazione. In occasione del cosiddetto September Issue, il numero di Vogue di settembre, che rappresenta in un certo senso la Bibbia delle tendenze dell'anno successivo, un numero che raggiunge alcune volte le 800 pagine e per il quale la redazione lavora febbrilmente per mesi, Anna diventa protagonista addirittura di un documentario che ne racconta la genesi. Anna Wintour's office. Anyone coming for this run through except for me? Gotta go! I'm with the internationally renowned editor-in-chief of American Vogue, Anna Wintour. The single most important figure in the $300 billion global fashion industry. She is watched more closely than the movie stars or the runway. Lauren Weisberger e Anna Wintour. Due donne che si incontrano per caso e percorrono per 10 mesi un tratto della loro vita insieme. È un tempo breve, ma sufficiente a creare un incontro che regala ad entrambe qualcosa di importante. Ad una la possibilità di realizzare il suo sogno, diventando un'affermata scrittrice di romanzi. All'altra, la popolarità più assoluta. Amata o odiata poco importa. Ciò che conta è che possa portare avanti le idee in cui crede. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.